Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Più tardi, col viso incollato al finestrino dell'autobus, mentre la strada dell'Arenella tornava rapidamente indietro, mi dicevo, dovrei vedere ancora Prisco e la Capria, e cercavo con questi nomi di distrarmi, di uscire da quello stato di oppressa lucidità. A lungo tuonò da un punto nascosto del cielo, ma non piovve. Anzi, quel cielo che era parso turbarsi e voler rompere in acqua, lentamente tornò a schiarirsi, e sul mare grigio inquadrato nel vetro del finestrino, simile a una biscia d'argento dietro il verde spento degli orti, riapparvero le isole. Prisco e la Capri, a pensarci, li conoscevo bene, e ricordarli era come vederli, e già sapevo come mi avrebbero ricevuta se fossi andata a trovarli e le parole che mi avrebbero dette. Il primo si era fatto una casa in via Crispi, una delle strade più aristocratiche di Napoli, col premio Venezia, credo. Era un giovane molto tranquillo, un po' pingue, distinto. I nomi dei suoi personaggi, Reginaldo, Delfino, Radiana, Bernardo, Iris, perfettamente letterari e senza alcun riscontro nelle nostre regioni, avvertivano del suo isolamento e più del sereno distacco della sua immaginazione dalla furiosa e sempre tetra realtà di questa terra. Grazioso a vedersi e ascoltarsi, era per momenti in cui non si cercasse una verità. Non avrei potuto dire lo stesso di La Capria. Tutti conoscono ora il suo libro, e anch'io l'ho letto. Tutto quanto vi è di involuto e di torbido, di ibrido e fragile in quel racconto che si attacca a Proust e Moravia, senza riuscire ad essere se stesso, rappresentava bene il punto in cui la natura di questa terra aveva raggiunto le mura di certe esperienze europee, ma non aveva scavalcato la cinta, era rimasta al di qua, dibattendosi e lamentandosi debolmente nella crescente oscurità della sera. Rivedevo la casa del giovane a Posillipo, entro le grotte di Palazzo Donnanna. I maglioni celesti e bianchi di lui, che fino a pochi anni addietro era stato uno dei primi giovanottini della zona, sempre annoiati e scalzi in riva all'acqua. Malgrado tutto questo, non mi appariva importante per una identificazione di Napoli. E difatti egli non era Napoli, ma la cultura e i vizi e le virtù di una borghesia più che altro meridionale, la cui patria finisce sempre per essere Roma. Io cercavo, invece, qualcosa che fosse Napoli, il Vesuvio e il controvesuvio, il mistero e l'odio per il mistero. Avevo la sensazione, mentre l'autobus passava traballando per la via Giacinto Gigante, che dalla finestra di una di quelle case una testa bionda e due occhi infantili e superbi mi fissassero. Ma questo non poteva essere che un errore, perché da molto tempo Gianni Gadkens, uno dei maggiori compagni del gruppo Sud, aveva lasciato Napoli e tentava di lavorare a Milano. Andrò a chiedere notizie al Prunas, pensai. E così mi ricordai anche di questo ragazzo e mi proposi di incontrarlo prima di lasciare nuovamente Napoli. Sempre barcollando e precipitando, l'autobus aveva raggiunto intanto le grandi mura rosse del Museo Nazionale, attraversò quindi la piazza intitolata Dante ed entrò, con un'andatura divenuta normale, quasi stanca, in via Roma. Si fermò 3 o 4 volte. A una di queste fermate scesi. Come già la sera precedente nel rione di Chiaia, ora anche qui c'era un gran movimento, un che di eccitato e straordinario, come fosse accaduto qualcosa, un assassinio, un matrimonio, una vincita, la fuga di 2 cavalli, una visione. Ma poi, accostandosi, era nulla. La plebe dall'informe faccia riempiva questa strada meravigliosa e scendeva dai vicoli circostanti, mischiandosi alla folla borghese come un'acqua nera, fetida, scaturita da un buco nel suolo, correrebbe ingrandendosi su un terrazzo ornato di fiori. Della presenza di questa plebe Non era nessun segno sulle facce dei borghesi, eppure essa era una cosa terribile. Non è che vi fossero solo due o tre vecchie madri, di quelle che si grattano il capo trascinando uno zoccolo coi grandi occhi rotti dalle memorie, ma ve n'erano 100, 200. Non è a dire che gli uomini dal petto concavo, gli occhi loschi, le mani strette al petto, fossero 5 o 6, ma erano perlomeno 1000. Se poi aveste voluto incontrare uno di quei ragazzetti fra i 5 e 10 anni che commerciano in sorelle tabacco con gli americani quando la flotta USA è nel porto, sareste rimasto atterrito dalla loro quantità. Essi pavimentavano addirittura con le loro grigi carni la strada. E come, al cospetto, appariva mirabile e strana la serenità dei borghesi. All'altezza di via Santa Brigida mi sentì chiamare con voce dolcissima e, alzando gli occhi a un palazzo di 5 o 6 piani, scorsi a quella distanza, affacciato e tutto dinoccolato a un balcone del piano più alto, un giovanottino dal viso estatico. Era Franco Grassi, uno dei due figli del decano dei giornalisti napoletani, Ernesto, e lui pure occupato nella redazione di un giornale locale. «Aspetta un minuto, che scendo!» mi avvertì. Guardandomi intorno, capii perché anche il Grassi stava affacciato a guardare. Qui era veramente accaduto qualche cosa. Il portone di uno dei palazzi appariva chiuso a metà, e dall'interno di uno di quei balconi veniva un gran piangere. Molte persone, plebe e borghesi, facevano silenziosamente circolo davanti al tratto di marciapiede sotto quel balcone. Era come se guardassero attentamente, con tranquillità avida, qualche cosa, e accostandomi scorsi a terra una macchia rossa, lucente, circondata da altre più piccole, come foglie rosse sparse intorno a un cespuglio rosso. Alcuni, specialmente bambini, allungavano a sfiorarla un piede. Seppi, quasi senza domandarlo, che mezz'ora prima una cameriera 18enne si era buttata dal 3° piano a causa di un litigio con la padrona. Si diceva che la signora era già stata arrestata per maltrattamenti, ma la portiera dello stabile, una enorme donna grigia che venne avanti con un secchio, smentì la notizia. «Ah, la signora non c'entrava per niente. Giovannina Latri, così si chiamava la morta, si era fatta poche ore prima una permanente fredda contro la volontà del fidanzato, certo Ciro Esposito, che era un magliaro. Questi, saputo il fatto, le aveva comunicato per telefono che rompeva il fidanzamento. La ragazza prima aveva riso, poi si era gettata dal balcone. Quasi certamente non voleva morire, voleva solo impressionarlo». Però si era rotto l'orso del collo. Ancora, mentre moriva, aveva gridato «Aiutatemi!». Dal 2° piano, una vecchia signora, che stava guardando tutta rossa in faccia, gridò che neppure questo era vero. «Conosceva Giovannina Latri e sapeva che non avrebbe mai fatto un passo simile, perché era una ragazza pia. La colpa era stata del governo, che aveva mandato via la famiglia reale». Da quel tempo Giovannina era cambiata, non dormiva più la notte, invocava sempre il re. Anche quella notte lo aveva sognato, che le diceva «Il mare si arrovoterà, la montagna si spaccherà e darà fuoco e il cielo diventerà cenere sopra questa città ingrata». «Svergognata!» gridò una voce da un balcone accanto. «Tenete ancora per la monarchia dopo che ha tradito il duce!» Si sentì un rumore di vetri infranti, poi una gran confusione, gente che rideva. Mi volsi e vidi Franco Grassi che mi veniva incontro dal marciapiede opposto. Franco Grassi era piccolo e fragile come lo ricordavo e camminava dondolandosi appena mentre pensava a cose dolcissime. I suoi occhi erano verdi, i capelli neri, quasi un bosco, gli mangiavano il viso sottile. Era molto elegante. E si succhiava un dito, guardandomi come un bambino. «Sai, ho quasi finito la prima parte del mio romanzo», mi disse, stendendomi una mano piccola e un po' stanca. «Però ora non ne sono più contento. Tu come stai? Ma che guardi?» soggiunse meravigliato. Guardavo il portone. La folla s'era aperta per lasciar uscire due donne, una delle quali si copriva la testa con uno scialle. Solo una mano nera e vecchia ne veniva fuori. Gridava con una voce che non doveva essere la sua normale, piena di collera. «Ma che non fai orno? Ma che forista nuttata? Mamma, calmatava! Dio ci ha voluto castigare nella sua bontà infinita!» singhiozzò la giovane. Entrarono, forse per la prima volta nella loro vita, in un tassì sgangherato che aspettava all'angolo. La giovane, forse, si pavoneggiava. La vecchia mostrò un attimo attraverso lo sportello un viso rosso, come se avesse bevuto e incantato. La macchina si allontanò nella gran luce che cominciava a colorarsi di azzurro e di rosa. Nessuno parlò più e, a poco, con strani sorrisi, la folla si disperse. Franco, vicino a me, aveva guardato tutto con occhi limpidi e attenti. «Quello che non mi convince più», riprese dopo qualche momento, «è il discorso troppo elaborato. L'orgoglio ci tradisce, a volte, nelle autobiografie soprattutto. Posso offrirti un caffè?» Camminandogli accanto, sapevo che la sua indifferenza era controllo. Tutti erano indifferenti qui, quelli che desideravano salvarsi. Commuoversi era come addormentarsi sulla neve. Avvertita dal suo istinto più sottile, la borghesia non smetteva di sorridere e, urtata continuamente dalla plebe, resisteva pazientemente, come un muro leccato dal mare. Non si poteva prevedere quanto questa resistenza sarebbe durata. Dove, nel popolo, scoppiava di tanto in tanto la rivolta e dalle alte mura della prigione uscivano bestemmie e rumore di pianti, qui la ragione taceva in un silenzio assoluto, temendo di rompere con una benché minima osservazione l'equilibrio in cui ancora la borghesia si reggeva e vedere i suoi giorni sciogliersi al sole, come mai stati. La paura, una paura più forte di qualsiasi sentimento, legava tutti e impediva di proclamare alcune verità semplici, alcuni diritti dell'uomo e anzi di pronunciare nel suo vero significato la parola uomo. L'uomo, in questi paesi, era tollerato dall'invadente natura e salvo solo a patto di riconoscersi, come la lava e le onde, parte di essa. Da Portici a Cuma questa terra era sparsa di vulcani, questa città circondata di vulcani, e questa limpida e dolce bellezza di colline, di cielo, solo in apparenza era idillica e soave. Tutto, qui, sapeva di morte. Tutto era profondamente corrotto e morto. E la paura, solo la paura, passeggiava nella folla da Posillipo a Chiaia. Passando davanti a Vicorotto San Carlo, scorgemmo davanti al bar Leda due o tre anime. Una era l'antico giovane Odio Bordica, figlio di Amadeo, l'ex capo dei comunisti italiani. Impinguito, ma sempre così dolce e assente come ai tempi del Guff, inchinava un po' sul petto la grossa testa dove diradavano i capelli e solo apparentemente si guardava intorno. Sapevo da tempo che aveva fondato la SASE, società autori senza editori, e probabilmente le cose non andavano a gonfie vele. Il traffico delle macchine e della gente non lo distraeva e nemmeno sembrava seguire ciò che avveniva vicino a lui. Quasi nel centro della piazzetta, con una tazza di caffè in mano e alcuni fogli nell'altra, Vittorio Viviani, con la sua testa di fauno innocente, andava leggendo, tutto felice e a voce alta, la prima parte del suo romanzo ancora inedito, dove si narra l'amore di una monaca. Chi lo ascoltava, più del giovane Orio, era il ragazzino dell'Eda. Con un vassoio carico di tazze che doveva distribuire alle varie redazioni e cronache del Mattino, Corriere di Napoli e Unità, s'era tutto incantato e ora il bricco del caffè vacillava. A una finestra del Mattino stava seduto sul davanzale uno dei redattori, un giovanotto col petto bruno e seminudo nella camicia aperta, e mangiava lentamente dei semi, di cui poi sputava giù, tranquillo e assorto, le scorie. Dal portoncino della SEM, proprio sotto quella finestra, Uscì un giovane pallido e fine, con gli occhiali e un buon sorriso sulle labbra. Si fermò, evidentemente distratto, a spiare il tempo, e in quell'attimo lo riconobbi. Era la piccirella Renzo, uno dei più puri marxisti di Napoli. Da vari anni, tra fame e freddo, non parlava quasi più, ma i suoi occhi rimanevano limpidi e fissi lontano, come quelli di un cristiano morente. Una grossa macchina si fermò davanti al marciapiede e ne scese un uomo gigantesco, ben vestito. Era Ansaldo, direttore del Mattino. Si diresse rapido, mentre con un dito toglieva un po' di cenere dal risvolto della giacca, verso il portone della SEM e al suo passaggio, silenziosamente, come una statua di angelo su una tomba, la piccirella si scostò. Quel redattore dall'alto continuava intanto a sputare semi. Tutto era così nitido, e quei vari personaggi di una scena che avrebbe anche potuto dirsi serena erano così gravi nella loro precarietà, e la loro malinconia, le solitarie battute, i sospiri così perfetti, che per un attimo fui tentata di cercare il regista di un così squisito lavoro, e pur non vedendolo e dicendomi che non esisteva e che quella non era una scena composta ma uno dei tanti allucinati attimi di Napoli, provai disagio al pensiero di entrarvi, quasi non circolasse entro quel vicolo la normale aria del mondo, e quelle cadenti mura, quel grigio e gli strani rose di verdi potessero, toccandoli, dileguarsi. Dissi a Franco che un caffè potevamo prenderlo anche al Gambrinus, se voleva. E lo stesso, mi rispose, forse un poco più nero. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.